19.01, oggi martedì 18 giugno, sulle 87.9 di Radio Onda Rossa sta per iniziare la penultima puntata della stagione di Likewise. E questa è la penultima puntata di questa stagione, la numero 89, un'oretta di musica insieme a Pinklo e Tona Sonica. E abbiamo anche una terza voce oggi con noi, Nancy Tungsten, che è venuta qui in studio, ci ha raggiunto in studio per presentare in anteprima assoluta mondiale il suo prossimo il singolo che uscirà a breve, che prelude al suo EP. Ciao Nancy. Devo salutare, eccomi. Ciao. La nostra sigla ve la facciamo ascoltare un po' di più, perché tanto ci lascerà. Insomma, penso che cambieremo anche per quest'anno sigla nuovamente. Ci piace un po' così variare. Quindi lei è Moonchild Sunnily, questa era Undumpable, che durerà ancora una puntata e poi la potrete cercare nei podcast di la trasmissione. Pinklo, ti senti intristendo mentre vero, mi sto intristendo. No, 0649175 0, no, che stavo già macinando su quale poteva essere la nuova sigla. 0649 750, se ci volete chiamare in diretta ci trovate qui fino alle 20. Se non invece volete chiamarci in diretta, ma volete scriverci, likewise@ondarossa.info. Abbiamo un canale Telegram dove non disturbiamo troppo, likewise_trx, se vi volete scriverci. Comunque sono salite le iscrizioni, lo possiamo dire, durante questo corso di quest'anno, piano piano siamo quasi un 100 persone. Piano piano. Disturbiamo sicuramente, come chi sta suonando il clacson qui sotto la radio. Volevamo cominciare, in realtà stai sudando perché fa caldo, è ufficialmente scoppiata l'estate. Volevamo però iniziare con una come si dice, storia, una news positiva una volta ogni tanto, diciamocela, anche qualche cosa che ci fa contente, visto che ne abbiamo parlato molte volte del boicottaggio che era iniziato contro la sponsorizzazione da parte di Barclays, che aveva fatto un accordo con Live Nation, di cui vi abbiamo raccontato cos'è e cosa fa più o meno in tutto il mondo. E il boicottaggio cominciato con la protesta ufficiale partita dalle Menstrual Cramps, le nostre amatissime Menstrual Cramps, e dobbiamo dire che con grande gioia accogliamo la notizia che Barclays ha sospeso il partenariato con Live Nation per i prossimi concerti per il quale questo partenariato era previsto, quindi soprattutto festival, hai ragione, del prossimo 2024, tra cui quello di White in Inghilterra e altri 2-3 concerti, Download, Latitude, che sono tutti festival molto importanti e molto popolari. E quindi siamo contente che il boicottaggio, visto che ne parliamo anche per altre situazioni, è una cosa che quando fatta bene e quando fatta insieme funziona e dà risultati. E invece passiamo a festeggiare un compleanno, anche se è passato da un giorno, due giorni. Sì, era ieri, ma per noi ogni scusa è buona per festeggiare le sorelle Dill, per festeggiare le Breeders, e quindi ci ascoltiamo le Breeders, che ci frega. E queste erano le Breeders con Divine Hammer, che è tratto da un albumone uscito ormai 31 anni fa, la Splash, che l'anno scorso ti ricordi che insomma mi sa che l'avevamo certo celebrato, che l'abbiamo celebrato, no? Certo. Cioè, ogni occasione è buona per celebrare, esatto, le Breeders. Esatto. Allora, che facciamo? Mettiamo il primo pezzo? Mettiamo il primo pezzo, dai. Vai. Lo metto io. Sì, no, lo metti tu. Allora lo metto io. Perfect lei Storm. Lei si chiama Gene Weaver, Perfect Storm. Gene Weaver, tratto dall'album Love in Constant Spectacle, uscito il 5 aprile scorso per la Fire Records. Sanno che non si è uscito per la sua l'etichetta, in realtà, che si chiama Bird Records, che è una costola della Twisted Nerve. Perché secondo me lei quella la gestisce, forse non vuole mischiare le cose. Sono sempre molto intriganti le tue spiegazioni. Album molto interessante, ve lo consigliamo, l'avevamo messo diciamo in scaletta più volte, poi alla fine è ricicciato fuori giustamente. Molto bello il sesto pezzo, che si chiama Is Metal, che mi fa pensare molto a Carolyn Rose come atmosfere. Non parlare così veloce che non ce n'è motivo. Motive invece è un pezzo molto alla Elliott Smith, quindi se vi piace, secondo me ci sono tante cose interessanti. No, è bello il disco. Jane Louise Weaver è una musicista, cantante, compositrice e, come abbiamo detto, anche appunto produttrice inglese, che ha al suo attivo insomma tante cose, band, altre band, cose soliste, quindi insomma una bella carriera da esplorare. Vabbè, aveva una band quando era al college negli anni 90 che si chiamava Kill Laura, poi ha avuto una band che si chiamava Misty Dixon, che credo sia un po' si siano un po' lasciati perché tragicamente è morto uno dei componenti della band, quindi non penso sia stato un bellissimo momento. Comunque già allora in realtà lei stava producendo cose sue, lei aveva iniziato a produrre con John Parish, che ricompare insomma in questo disco. Lui lo incontriamo l'abbiamo incontrato spesso quest'anno parlando di cantautrici di lungo corso, in realtà con delle produzioni anche molto belle, devo dire. È stato un anno molto faticoso per John Parish e quello prima, perché questi sono tutti usciti, quindi abbiamo salutato chi ci ascolta in dub da Terni e da Viterbo. Benvenute, ciao. Benvenuto, sì, insomma, perché adesso siamo anche in dub su Viterbo. Salutiamo chi stiamo arrivando, salutiamo anche chi ci ascolta in streaming su ondarossa.info. E prossimo pezzo della e chi ci ascolta sugli 87.9 modulazione di frequenza da fino oltre il raccordo. No, loro non li salutiamo. No. Secondo pezzo della scaletta di oggi, loro si chiamano The Lovely Eggs, Death Grip Kids. Shove your phone, love your ass. Tratto dall'album Existentialism di Lovely Eggs. Io adoro i loro titoli. A 4 anni di distanza dall'album precedente, che si chiamava I'm a Moron, appunto per la serie di titoli, sono fantastici. Duo di Lancaster, lo-fi, insomma, garage e tutto quello che ci sta in mezzo, anche molta psichedelia, molto, diciamo, molte atmosfere anni 60, insomma. Quindi se vi piace questo genere di cose, questo è un album che vi piacerà moltissimo, uscito il 17 maggio scorso. Esatto, comunque loro sono una coppia anche nella vita. Sono marito e moglie. Sì, hai letto. Sì. No, perché ogni tanto becchiamo questi mariti e mogli che fanno musica e fanno ancora musica. Tra l'altro hanno rilasciato una dichiarazione molto interessante su un tema che noi a Likewise trattiamo parecchio. E raccontando insomma di questo album, dice: è un po' un album degli anni selvaggi. Non pubblichiamo un nuovo disco dal 2020, come stava raccontando Dona. E nel frattempo siamo stati qui a combattere le stronzate, a cercare di difendere uno stile di vita di cui abbiamo goduto in questa città, la loro città è Lancaster, negli ultimi 30 anni e più, come musicisti attivi che si rifiutano di trovare un lavoro, un altro lavoro o comunque un lavoro normale. Si tratta di credere in qualcosa e non lasciarsi andare, ma questa riluttanza a cedere alla fine ha il suo prezzo, inizia a distruggerti, e l'album è una sorta di documentazione di quella distruzione, così come della forza che abbiamo per superare tutto. In definitiva, questo è un disco pieno di speranza sulla sopravvivenza, che è un po' il discorso che facevamo su appunto i live, la musica, i musicisti, tutti quelli che non rientrano nei grandi circuiti mainstream, che fanno sempre più fatica a fare quello che in realtà poi per tanti anni hanno appunto sempre fatto. Lo dice, noi siamo 30 anni che sogniamo, esatto, comunque città dintorni, e di quello riusciamo a campare in qualche modo, quindi a vivere, cioè senza dover fare altro, e sta diventando e diventa sempre più difficile. Questa è un'altra testimonianza, se lo è in Inghilterra, cioè, non voglio saperne il resto. Da infatti noi, existentialism, diciamo, no, gioca sul fatto, si chiamano Lovely Eggs, e sull'esistenzialismo legato anche a tutta questa riflessione. Nancy Tungsten, ospite oggi della nostra 89esima puntata, qualcosa la puoi dire se ti va, sempre se ti va, rispetto alla difficoltà di essere musicista, perché penso che poi in Italia principalmente quando non fai una musica insomma, come dire, di facile ascolto mainstream, o se non di mainstream di, almeno di facile ascolto, ma che comunque faccia una ricerca sia dal punto di vista dei testi sia dal punto di vista della musica e da come la proponi, da come la produci, tutto si complica ancora di più. Beh, indubbiamente sì, in Italia è difficile campare di musica quando non fai roba da Sanremo già da sempre, insomma, lo sappiamo, questo non è niente di nuovo. E, sì, come se in Italia forse sta cambiando questa cosa, perché prima non c'è niente fra, diciamo, i club underground e poi appunto X Factor, le cose che vanno in televisione. Forse questa cosa qua sta un po' cambiando con i social, ci saranno leggermente più fondi per i festival, non so. Però, sei positiva? Sono positiva, però è chiaro che no, non è chiaro, voglio dire, nella mia esperienza è difficile fare un lavoro full time e poi riuscire a fare musica in modo alto livello, sì, comunque. Perché il problema è che appunto non campando di musica, in qualche modo per pagare le bollette devi fare altro, come spesso accade anche, sì, per insomma nel resto del mondo, non soltanto in Italia. Un'altra cosa che mi viene in mente, tu dicevi appunto che il livello è club piccoli dove fondamentalmente raccogli, che ne so, di cachet il minimo per neanche per, diciamo, rifarti della serata, e appunto grandi eventi mainstream che in qualche modo a cui accedere è particolarmente difficile. Poi ovviamente se non sei, sì, diciottenne, no, in poi ti richiede un compromesso anche, perché certo, appunto fino a sempre mi hanno detto, ma sei stata in televisione, cioè la gente è un po' media, no? Mi diceva, cioè come se tu sei in televisione allora vuol dire che hai raggiunto il tuo obiettivo, no? Come devi essere vista, non è l'obiettivo, non è che vieni sentita. No, non tanto evidentemente, non è molto importante. Prossimo pezzo di oggi, lei si chiama Paige Kennedy, Lingerie Model. Your mom tells me that I've got the wrong parts. I didn't actually ask Karen. She's confused by my clothes and my hair and my shoes. Maybe I should wear a dress so that her stress can diffuse. Manchester Airport, I know they're looking at me, trying to see what queue to put me through security. Shocked at the screen of the x-ray machine. Lingerie model. Paige Kennedy, Lingerie Model, esce appunto, è uscito il nuovo singolo di questa artista, producer e musicista, compositrice del Kent, che arriva dal Kent con questo sound un po' funk, alternative pop, un po' di lavori all'attivo, tra cui appunto una, diciamo, partecipazione a BBC Six Music, che appunto per la serie Andare in televisione di cui parlavamo prima, che in qualche modo ha lanciato Paige sulla scena. La frase "She's giving peer shape trouble", che è appunto una frase che faceva parte di questo pezzo che abbiamo ascoltato, che è un po' idiomatica, potrebbe essere interpretata tipo sta causando un sacco di problemi, ma in realtà sta causando un sacco di problemi perché è una donna. Nel pezzo che abbiamo ascoltato adesso racconta Paige che si trova all'aeroporto di Manchester e vede quelli che lavorano lì che non sanno in che fila metterla, se la fila dei maschi o la fila delle femmine, per farsi insomma, per passare i controlli e tutta una serie di cose, il bagno eccetera eccetera, tutta una serie di cose che per le persone queer non binarie appunto è vita quotidiana. Quindi insomma raccontava anche questo. Bene, dai, sono le 19:25, possiamo passare al pezzo numero 4 della scaletta di stasera, Note Cose Città. Vi ricordiamo che stasera non ci sono, ma c'è Semiglia con una puntata molto bella sull'hip hop delle donne del Sud America. Del Sud America, non mi ricordo. In maniera, diciamo, generale, poi vedremo che cosa avrà scelto. Prossimo pezzo, si chiama Laura Mish, Light Years Regrown. Yesterday holds a memory, tomorrow unfolds a dream. Today I'll rest in space, living in between. Welcome home. E abbiamo cambiato atmosfera. Lei è Laura Mish, Light Years Regrown. Light Years è il titolo del pezzo, Regrown è, diciamo, è la sigla che accompagna tutti questi pezzi, perché c'è una storia. Intanto l'album da cui è tratto questo singolo si chiama Sample the Earth ed è uscito per la One Little Independent Records. Vuoi raccontare? Come il disco precedente che si chiamava Sample the Sky, e che in qualche modo, cioè, sono gli stessi brani. Solo che cosa è successo? A un certo punto lei ha fatto una forest town walk nei boschi di Sydenham e insomma, che era curata ed era in collaborazione con uno studio di design ecosociale Holobiont, e ha spogliato, quindi per fare questo spettacolo ha spogliato tutte le sue canzoni, la sua voce non era amplificata, neanche il suo sassofono, ed è andata con Marisa Osu all'arpa. Le è piaciuto anche a noi, devo dire, e le è piaciuto molto, tanto che poi ha deciso di collaborare con un produttore ingegnere del suono, Holly Barton Wood, per ricreare una performance registrata dal vivo in studio con un paio di amici intimi, proprio per ricreare questo suono molto grezzo, molto foresta, molto dell'ambiente, della foresta, del mondo naturale. E devo dire che è venuto molto bene. E effettivamente, se ascoltate entrambi i dischi, poi dipende anche un po' dalle cose personali, e io trovo molto più bello questo che è uscito. Tanto che lo scorso, in realtà, noi non l'avevamo messo qui a Likewise, anche se in realtà l'avevamo, almeno io l'avevo ascoltato, però non mi aveva entusiasmato parecchio. Infatti, poi quando ho rivisto questa copertina, ho detto: ma io questo disco l'ho già visto, poi ho riguardato la storia, effettivamente l'avevo già visto, anche già ascoltato, ma in questa nuova veste è un disco nuovo, cosa che in realtà dichiara anche lei, dicendo che è un po' come se fosse un disco gemello, una sorella del disco precedente, cioè non è una riedizione di quel disco lì, è come se fosse un alter ego, che in realtà era uscito da pochissimo, quindi insomma in qualche modo avrebbe anche poco senso. Sì, da un anno. E l'altro disco era, insomma, più ispirato alla pop elettronica, sempre appunto con diciamo una base di una musicista sassofonista, come dicevamo prima, che comunque ha ispirazioni anche un po' jazz all'interno di quello che compone. Però lei è produttrice elettronica, esatto. Quindi in realtà ha fatto proprio un salto. Chissà adesso cosa farà in futuro, magari mischierà. Chissà, e verrà fuori una cosa bellissima. E dicevamo, Nancy, prima, mentre ascoltavamo le prime note di questo pezzo, che ci faceva venire in mente una voce bellissima che un po' ci manca, no? Quella di My Brightest Diamond. Sì. Esatto, quindi ci chiediamo: che fine ha fatto My Brightest Diamond? La troveremo, la cercheremo per voi. Questa settimana la cerchiamo, la chiamiamo e diciamo: prima dell'estate, Shara, che cosa stai facendo? Restiamo con il quinto pezzo, in realtà in un ambito live, e questa cosa spesso succede, le ispirazioni delle artiste che vi facciamo ascoltare poi ci ispirano anche altri ascolti, perché è uscito un album live di una band, di una musicista, di una band che si chiama This Is The Kit, che ci piace molto. Intanto ci ascoltiamo Stuck In The Room e poi ne parliamo. Twice, click it back in, nearly as nice, sorting it out, stacking up piles, take it back down, error by trial, stuck in a room, tidy it up, not good enough. Sitting up straight, sharp as a tack, snatching it off, then grabbing it back, good to be honest, stings of it too, can only be you, rebuilding you, not what you wanted, not knowing when, both ways beholden, owing to them. Dust that builds up, growing potatoes in corners of fluff, stuck in a room. stand up. Il pezzo si intitolava Stuck in a Room ed è tratto da questo bellissimo live registrato in un posto straordinario che si chiama Minak Theater ed è un teatro all'aperto, naturale, bellissimo, a picco su una scogliera in Cornovaglia. E siccome queste le immagini, perché sono molto belle, cercatele insomma online, perché si trovano le registrazioni video di questo in particolare di questo concerto, ma anche di altri eventi ovviamente, quel concerto che si è tenuto l'anno scorso, il 19 maggio dell'anno scorso, e poi ci ha fatto venire voglia anche di capire ma dov'è sto posto, e abbiamo scoperto che c'è una storia molto bella intorno a questo teatro. Alla fine della prima guerra mondiale, la mente di, adesso vi dico il nome perché non me lo ricordo, di una donna fantastica che si è trasferita in questo villaggio, in questo paesino appunto sull'oceano, ha partorito l'idea, visto che lei si era unita al gruppo locale, si chiama Rowena Cade, si chiamava, al gruppo locale di teatro che faceva la presentazione delle opere di Shakespeare, aveva pensato, ma visto che stiamo mettendo in scena La Tempesta, perché non prendiamo questo pezzo del giardino della casa mia e lo facciamo diventare un anfiteatro o comunque un teatro. Per cui hanno cominciato altro questo, che scenografia, esatto, hanno cominciato questo progetto, lei, il gruppo teatrale e altri suoi amici, che poi a mano si sono uniti in questo folle progetto, almeno apparentemente, e in realtà lei ha continuato a lavorarci fino a 80 anni ed è venuto fuori una cosa bellissima. Vi invitiamo a andare a guardare le immagini perché veramente è uno scenario fantastico, dove adesso da tanti anni ormai c'è un festival che da aprile fino a ottobre appunto presenta performance come quella che avete appena ascoltato in uno scenario naturale meraviglioso, che sicuramente mette anche di gran buon umore gli artisti, tanto che alla fine quando lei racconta che quando le proposero di andare a suonare in questo festival, poi dice fortunatamente abbiamo avuto un'idea intelligente che è stata quella di registrare quel live, perché comunque era una situazione molto bella ed è stato un bel concerto. E devo dire che non sono più tantissimi i live che escono, soprattutto anche di delle band indipendenti, prima era una cosa un po' più frequente anche vedere i dischi live, forse oggi comunque tra i costi e tutto probabilmente non tutti pensano di far uscire i live, i dischi. Invece questo lavoro di The Kit, che noi abbiamo passato a Likewise, mm-hmm, con il suo ultimo disco, tra l'altro, che era quello che portava in giro esattamente nel tour Careful of Your Keepers, esatto, l'anno scorso, che è uscito per la Rough Trade Records come questo disco live, e molto bello, dai. Sicuramente è un disco molto ispirato, quindi valeva anche la pena proprio di metterlo su vinile. Sì, poi ci sono era anche uscito... i suoi pezzi vecchi, altri insomma che i fan amano molto, leggevo, quindi era uscito in realtà live, come progetto del Record Store Day, quindi di quelle cose un po' particolari che vengono pubblicate in occasione di quella giornata, perché comunque sì, insomma c'è un po' di passione, collezionismo insomma per cercare di accaparrarsi queste insomma chicche, quindi era uscito in edizione limitata. L'edizione in vinile è bellissima. E poi in realtà hanno pensato, la Rough Trade giustamente ha pensato, ma perché non ripubblicarlo? E quindi insomma ecco perché ve lo proponiamo. Sì, anche perché l'hanno fatto è uscire. Accessibile. Esatto, l'hanno fatto uscire un po' per tutti questo mese qua, l'11 giugno è uscito, quindi da poco. This is the Kit. E invece parliamo di Nancy Tungsten. Sì, che allora, sono... sì, che sì. Mi sembra, diciamo, arrivato, è arrivata il momento. L'ora. Allora, Nancy. Sta, sì. Uscirà intanto le date, le uscite, così le dici te con la tua voce e sono anche più precise. Più precise. Allora, giovedì 20, quindi fra due giorni, uscirà questo singolo che penso andremo a sentire, no? Che si chiama Dear Freak. E il videoclip di questo singolo uscirà la settimana prossima, lunedì, mi sembra, il 24 giugno, in anteprima su Sentire e Ascoltare. E a seguire, vabbè, sarà su YouTube, insomma, si potrà vedere in qualsiasi posto, non sarà soltanto su Sentire e Ascoltare, insomma. Però l'anteprima è lì. L'anteprima, allora, è lì. Intanto, vabbè, Nancy è appunto un'amica di Radio Onda Rossa, sia una voce anche stata di Radio Onda Rossa per un po' di tempo, per un bel po' di tempo, quindi insomma ci ha fatto ascoltare anche le sue selezioni musicali e ci ha raccontato le sue storie di musica, ma poi insomma, voglio dire, è in giro almeno in Europa da tanti anni con diversi progetti, vogliamo parlare, che ne so, delle Female Trouble, vogliamo parlare di Dance of Key, insomma ci sono tante... Cioè, che cosa diresti del tuo passato, non in senso di finito, ma insomma di quello che fino adesso hai fatto musicalmente, che ci racconteresti? Beh, posso dire che è un po' soprattutto questo brano che esce adesso è in continuità un po' con la mia anima da cantautrice, possiamo dire, alla fine. Però sicuramente già nell'arrangiamento si sente che ne ho attraversate, insomma, di altre sonorità un po' più elettriche, sì, e infatti mi piace dire adesso che adesso faccio un progetto cantautoriale elettrico, sintetico, sì. Folktronica ti sta come... Folktronica un po' troppo, Un po' troppo, un po', vero? Troppo, cioè sì. È troppo forse delimitante, forse. Allora, devo dire che... Perché devi scegliere, no, il genere su Spotify, sì. Quando ti inserisci sugli aggregatori digitali, ho messo pop alternative pop. Ok. E volevo mettere industrial pop, ma non era possibile. non lo sapevo che ci fossero delle limitazioni su cosa scegliere come, sì, autodefinizione. Perché ce ne avranno settate un tot. Non so, per industrial pop non si può essere. Così almeno sembra. Ok. Quindi pop alternative. Però sì, accetto suggerimenti per le prossime uscite. E questo EP che uscirà, insomma, che ci stavi dicendo, intanto abbiamo visto recentemente, abbiamo avuto la fortuna di vedere un set live, e quindi insomma è effettivamente rispetto al passato, ti presenti insomma davanti al pubblico in una veste molto diversa, no? Insomma, prima c'era una band rock and roll, o più, diciamo, in maniera più rock punk, e invece adesso sei da sola con synth, giocattolini vari, chitarra, sì. e te, insomma, quindi è anche un modo diverso di porsi, com'è il cambio? Beh, sì, molto diverso, infatti diciamo che la band, la parte ritmica è il mio sequencer adesso e quindi posso dire che adesso faccio un po' la seconda chitarra come facevo nelle Female Trouble, perché appunto faccio un po' di riff, faccio delle cose di accompagnamento, e quindi sicuramente questo cambia rispetto all'ossatura degli inizi, però appreso infatti da Female Trouble, anche da Dance OK, che nell'ultimo album avevamo inserito il synth, il Moog, che diciamo è onnipresente adesso in questo EP che uscirà a ottobre. Ok, allora ci andiamo ad ascoltare Dear Freak, Nancy Tungsten. We unreal. old friends, strangers, or all your strangers' friends. Just holding on, and are you keeping me? Melancholy with your ice and cold, then we'll trap it all in a glass bowl, turn it upside down and make the fall snow. Just holding on, and are you keeping me? La voce di Nancy Tungsten qui in studio a Likewise, alla nostra puntata numero 89, con il pezzo che si intitola Dear Freak e che in anteprima appunto ci hai regalato qui oggi. L'anteprima dell'anteprima. L'anteprima dell'anteprima. Mm. Allora, stavamo dicendo in fuori onda che in realtà è una produzione indipendente, l'hai prodotto tu, sì. Distribuito da Goodfellas, però insomma, come molte delle cose che mettiamo, insomma, le energie in tutti i sensi arrivano da te, quindi insomma è anche un lavoro DIY molto, molto importante, immagino, no? Anche in questa fase della musica, no? Di quanto è difficile, come dicevamo prima, è anche difficilissimo farsi produrre se vuoi prodotti da sola, no? Beh sì, io ormai non conosco nessuno a livelli bassi che l'etichetta che gli paga qualcosa, devo dire. Vero. Al massimo qualcosa di ufficio stampa quando va bene. Sì. Okay. Non nel mio caso. Non nel tuo caso. Bene, insomma, possiamo dare dei riferimenti per chi appunto ha ascoltato questo brano, per chi poi noi lo ricorderemo, lo faremo risentire quando uscirà l'EP più avanti, ma insomma magari dei riferimenti anche rispetto a quelle che sono gli ascolti che ci possono essere online, se c'è un Bandcamp o un altro dei miei altri progetti. Sì, sì, esatto, per ascoltare la tua musica. Sì, su c'è Spotify, c'era anche un Bandcamp di Dance OK, però okay, non so se è ancora attivo, devo dire la verità. Ora controlliamo durante però, il prossimo tempo. Però c'è Spotify, ci sono i due dischi di Dance OK, c'è l'EP di Female Trouble Band, c'è anche il mio primo disco che però non vi consiglio di andare a sentire perché proprio non mi rappresenta più per niente. Vabbè, perché in realtà a volte è interessante mettere insieme, no, il percorso musicale. Sì, esatto. Vabbè, se proprio uno vuole. Sì. Io sono molto soddisfatta di essere arrivata a questo EP oggi, diciamo. Sì, sono molto soddisfatta del mio percorso e di come sono oggi. Però certo, si parte da qualche parte sempre, è vero. E quindi insomma saremo felici di ascoltare l'uscita di questo EP. Prossimo pezzo, lei si chiama Laura Jane Grace, I'm Not a Cup. Danger all down your window, keep off the tracks. Read what the signs are telling you. Watch your step, know how to read the room. Well, the ego is a fragile figure waiting to crack. It takes a hauling in the fall. It takes a good look to know where you're gone. And now that you're gone, I know I'm not. I'm not a fucking question, you have to tell me otherwise it's entrapment, right? I saw this cop at the stupid dog. He was waiting for his meal to come. Let's take California home, cause Devon is jam-packed. I think I got this whole city wrong. Any redemption for a stupid old poem? You can run from where you're going, but not who you love. La voce inconfondibile di Laura Jane Grace, I'm Not a Cop, un singolo che abbiamo scelto dall'album Hole in My Head, che è uscito appunto lo scorso febbraio. Voce, chitarra e diciamo composizioni di una band storica del punk americano degli anni 90 e 2000, Against Me, che insomma chi ascolta il punk in Europa, insomma, come gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, esatto, come tutte le ascoltatrici che ci seguono, e insomma amatissime veramente la sua band. E poi appunto personaggio importante per la scena punk, essendo praticamente la prima transgender, diciamo, a fare outing in quella scena, a scrivere della sua storia, a raccontare la sua storia in un bellissimo libro che io mi ricordo si chiama Tranny e poi qualcos'altro, però Confessioni di una punk anarchica venduta, esatto. Sì, è uscito nel 2019, ho controllato pure online che ci sono ancora delle copie, si può comprare. Bello, bello, bello, anche perché diciamo, avendolo letto posso dirlo, anche perché il racconto parte di Laura Jane, parte sia della, diciamo, della sua musica, di tutto il percorso nel punk, delle aspirazioni e ispirazioni musicali, Crest, tutta la scena anche inglese, eccetera eccetera, parte da lontano, perché in realtà Laura scriveva, aveva questo diario dal quale attinge poi, che aveva cominciato da giovanissima, e quindi insomma aveva veramente materiale con il quale confrontarsi rispetto a quelle che erano a quello che era il modo di elaborare anche da giovanissima quello che le succedeva intorno, sia nella scena musicale sia nella vita personale. Non la possiamo raccontare la sua vita, quindi insomma non tutta, quantomeno vi invitiamo quindi a cercare il libro, però in realtà lei una vita molto densa, nel senso che comunque era figlia di un militare, era stata in tanti luoghi del mondo, compreso Napoli, ho scoperto, ovviamente perché siamo pieni di basi della... vabbè, quello un dettaglio, purtroppo. E poi invece si sono separati i genitori, lei è tornata a vivere a Miami, a Naples però in Florida, e in realtà non a Miami, in Florida, e racconta anche insomma di come è stata osteggiata tutta la sua, il suo fare musica, la sua band, se sono stati considerati dei traditori, quindi insomma una vita e una musicale non molto densa. E poi questo coming out che lei fece in una lunga intervista a Rolling Stone nel 2012, e quindi ci sembrava anche il minimo passare un po' questo disco per chi magari si era perso, non conosce la storia, non conosce la musica delle Against Me e di Laura Jane Grace, che comunque in questi ultimi tempi ha fatto e prodotto tanti dischi anche come solista, come questo che stiamo ascoltando, abbiamo presentato adesso. Sì, questo Hole in My Head è un po' diverso dalle cose diciamo da solista che aveva fatto precedentemente, che erano molto acustiche, chitarra acustica appunto, e la sua voce inconfondibile, e diciamo ritorna a sonorità, questo pezzo che abbiamo messo, molto rock and roll, ma anche gli altri pezzi un po' più incazzati, un po' più punk, quindi insomma torna anche, e lo dice anche nei testi, insomma I'm not done, non sono finita, ho cose da dire, ho cose da raccontare, musica da fare, quindi insomma è anche molto bello per questo, quindi assolutamente provate ad ascoltarlo. Sì, anche il pezzo che abbiamo mandato, che è Non sono un poliziotto, tra l'altro lei racconta in diverse occasioni di tutte le volte che è stata arrestata anche senza motivo dalla polizia, eccetera eccetera eccetera eccetera. Quindi cercate la biografia, cercatela, è uscita per Tsunami Edizioni, quindi penso che sia una casa editrice anche questa molto militante, molto piccola, Trenni, confessioni di una punk anarchica venduta, ed è uscito nel 2019, ma ho visto che qualche copia ancora si può trovare. Sono le 19.57, quella che ascoltate è Radio Onda Rossa, questa è la puntata numero 89 di Likewise, la penultima diciamo prima della pausa estiva per ricaricare un po' le pile e le scalette. Vi ricordiamo che potete scriverci a likewise@ondarossa.info, potete anche scriverci suggerendo quella che potrebbe essere, chissà, la prossima sigla della prossima stagione, e intanto ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di quest'oggi, loro sono Pompoco, go! go. Che non si dica che in Norvegia non si ascolta e non si suona il punk. Pompoco in realtà il, non so se l'hai trovato, vabbè, insomma, questo è un singolo, ce ne sono altri due che sono usciti dal prossimo album di questa band. Il singolo si chiamava Go, quello che avete ascoltato, e l'album si chiamerà Champion e uscirà per la Bella Union ad agosto. 26 agosto, quasi. Bene. Alla fine, quindi forse lo ritroveremo in apertura, sì. Di quarta stagione. Se ci piace, sì. Se ci piace, se sì. Ci piace, i sì. Singoli, i tre singoli che abbiamo ascoltato sono molto carini, molto divertenti. Loro sono questa band di Oslo, norvegese, capitanata da questa voce fantastica che un po' ci fa pensare a The Hoof, alla band, insomma, che anche qui a Likewise amiamo moltissimo, con questi, insomma, cambi repentini, questa voce un po' particolare, molto, molto morbida. E secondo me è una bella band, quindi insomma le seguiremo. Pompoco è un nome che viene da una fantasy animato d'animazione giapponese diretto da Isao Takahata, uscito per Studio Ghibli, quindi certo. Tu l'avevi visto? Sì. Pompoco, perché tu sei appassionato di animazione. Studio Ghibli, sì, esatto. Com'era, bello? Sì. Ok, allora lo vedrò. Pompoco è un vecchio film, 1994, vecchissimo, sì. Okay. Una delle prime cose dello Studio Ghibli. Non sono, diciamo, anche... sono gli artisti meno famosi da noi, perché siamo i soliti provinciali, e di Miyazaki, che ovviamente ha superato, certo, le barriere, insomma. È mainstream ormai. Esatto. Però mi sarebbe stato interessante sapere perché si chiamano così, ma non sono riuscito a trovarlo e mi prometto di farvelo sapere. Sono le 20.02, quindi lasciamo il microfono di Likewise di Radio Onda Rossa. Vi diamo appuntamento la prossima settimana per l'ultima puntata della stagione, ve l'abbiamo detto 100 volte. Se volete riascoltarci, però, trovate tutti i podcast sul sito della radio, basta che cercate Likewise o Likewise-TRX, vi escono tutte le trasmissioni. Se ci mettete l'anno, poi vi escono tutte quelle di quest'anno, così non diventate matte. Consigli per la gestione della ricerca. No, però possiamo fare uno spoiler, non so se lo possiamo fare. Quale sarà lo spoiler? Non so che stiamo io. Lavorando al nuovo sito della radio, che sarà molto più fruibile, molto più facile da trovare le cose, perché persino noi, infatti, non, certe volte facciamo fatica, ma succede. Quello che sempre invece... perché facciamo sempre tutto noi con molto amore e molta volontarietà, e ve lo ricordiamo che è ancora attivo il radioabbonamento. Se qualcuno di voi non ha ancora dato una mano a questa radio, c'è sempre tempo per farlo. Basta che andate sull'home page della radio, cliccate sul banner, il disegno che ci ha regalato Sonno, e sarete direzionati su Produzioni dal Basso, e potete fare una piccola donazione che ci aiuta a mantenere tutte queste radio in DAB che abbiamo aperto, Viterbo Eterni, e ovviamente la frequenza in analogico, a cui siamo molto affezionati. In realtà, diciamo, ci sono ancora delle bellissime borracce, vero? Ci sono le borracce. Tra l'altro arriva l'estate, la borraccia, l'acqua, le fontanelle, cioè voglio dire... L'ecologia, esatto. Poi con la bellissima bellissimo disegno donatoci da Paper Surgery, quindi insomma voglio dire è anche un ulteriore motivo per donare e per accaparrarsi una borraccia molto bella. Allora, adesso vi lasciamo in compagnia un po' dell'automatico, salutiamo con tantissimo affetto, grazie per essere stata con noi. Chi salutiamo? Chi? Nancy, sì. Tungsten. Sì. E insomma, ci diamo appuntamento per ascoltare quando uscirà il tuo EP, il tuo prossimo EP. Grazie per essere stata con noi. E soprattutto, bello, facci sapere quando ci saranno dei live, così insomma sarà un'occasione per incontrarci tutte lì. Grazie, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora niente, Likewise finisce qua, ci vediamo alla prossima puntata per chiudere la stagione. Ciao ciao.